Ciao a tutte e tutti. Innanzitutto ringraziamo Radio Onda Rossa per questo spazio per dare voce al COPIN e alla causa Berta Caceres. Berta Caceres, ricordiamo, è l'attivista indigena, femminista, ambientalista e tanto altro, assassinata la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2016. Berta era coordinatrice del COPIN, Consiglio Civico di Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras, un'organizzazione che ha più di 26 anni e che dall'inizio ha lavorato, lottato per migliorare le condizioni di vita appunto delle popolazioni indigene. In quel periodo Berta, il COPIN, le comunità stavano lottando contro la costruzione di un megaprogetto, la diga Agua Zarca, sul fiume Rio Gualcarque, riconosciuto tra l'altro sacro dalla popolazione indigena. Per l'assassinio di Berta, l'anno scorso ci sono stati dei processi, ci sono 7 persone in carcere da più di un anno riconosciute colpevoli, però ad oggi non hanno ancora la condanna quantificata, cioè è più di un anno che sono in carcere e non hanno ancora la pena. Questo preoccupa molto perché probabilmente è una mossa per far scadere i termini e quindi poi in qualche modo liberarli. E oltre a queste 7 persone, che appunto sono gli autori materiali, quindi chi una struttura criminale che ha organizzato e messo in piedi diciamo il piano dell'assassinio. E, oltre a loro c'è anche un altro personaggio che è l'unico per il momento autore intellettuale in carcere, arrestato. Guarda caso, un 2 marzo dell'anno scorso, e anche lui da un anno e mezzo in carcere, però senza ancora un processo. Oggi ci sarà un'udienza preliminare che dovrebbe stabilire se procedere con il processo o no. Questo personaggio, comunque, è un personaggio chiave, nel senso che lui è stato diciamo l'intermediario, la connessione tra chi ha assassinato materialmente Berta e chi invece ha ordinato e pagato questo crimine. Questo personaggio è tra l'altro diciamo molto emblematico perché comunque lui ha studiato nella scuola di West Point militare degli Stati Uniti, era dell'intelligenza delle forze armate honduregne. Sicuro ci sono le prove che ha partecipato nella pianificazione dell'omicidio di Berta. E quindi del suo ruolo di collegamento tra la struttura sicariale e chi ha pagato. Però lui era anche direttore dell'impresa DESA, Desarrollo Energetico SA, che è appunto l'impresa che avrebbe dovuto costruire questa diga su Rio Gualcarque. Diciamo che David Castillo rappresenta appunto la violenza, la corruzione e l'impunità, è un po' di quello che del modo di attuare del modello estrattivista in Honduras. Sembra fatto tutto secondo un manuale oltre al caso di Berta, viene ripetuto anche in tantissimi altri casi, e non solo in Honduras, ma in molti altri paesi di America Latina, ma anche del mondo. Questo personaggio, appunto, come dicevo, è da un anno e mezzo in carcere. E appunto vedremo oggi cosa succede. Quindi diciamo che vi stiamo invitando ad accompagnare il COPIN, che tra l'altro adesso è coordinato da una delle figlie di Berta, Bertita, anche lei si chiama Berta, e, che è stata in Italia in varie occasioni, anche recentemente. E vi invitiamo a seguire i media del Copin. Probabilmente, se ci saranno le condizioni, si trasmetterà attraverso un Facebook Live, attraverso la pagina del Copin, che è Copin, come si dice con l'H finale, in TBK. E se ci sarà appunto la possibilità, si trasmetterà in vivo. Se no, nella pagina del Copin e nel suo Twitter invitano alle 9 del mattino, non dura, qui vabbè, sono già passate, saranno già passate, però comunque invitano a riprodurre, a diffondere, a condividere alcuni messaggi. E alcuni hashtag per fare un po' di pressione e per veramente finalmente ottenere giustizia in questo caso. La pagina del Copin è copin con H finale dopo la n.org. E lì ci sono appunto tutti i collegamenti per andare sul Twitter, sul Facebook e volendo c'è anche la possibilità di ascoltare le trasmissioni delle radio comunitarie del Copin online. Nella pagina comunque ci sono anche informazioni, ci sono tanti tanti comunicati, tutto quello che è stato fatto dal 2 marzo del 2016 in avanti, proprio per cercare di avere giustizia per Berta e, come dicono loro, avere giustizia anche per Honduras e per il mondo. Quello che comunque chiede il Copin è, oltre alla giustizia, e anche comunque la cancellazione della concessione data all'impresa DESA da parte dello Stato hondureño, e quindi la liberazione del fiume sacro Gualcarque, ma anche comunque che ci sia un'indagine dei processi e le pene per gli autori intellettuali, per chi ha pagato, per chi ha ordinato questa morte. Ci sono nomi e cognomi, per esempio la famiglia Atala Sablá, che è una famiglia potentissima sia in Honduras che in tutto il Centro America, e loro comunque sono tra i proprietari di questa impresa. E comunque dalle prove, che poi sono anche registrazioni telefoniche e messaggi, comunicazioni e chat, dalle prove risulta che sono coinvolti anche loro. Comunque loro sono comunque proprietari di questa impresa, e come il Copin ha denunciato dall'inizio, anche le condanne che poi ci sono state hanno confermato queste denunce. Quindi, se poi comunque i processi sono andati avanti in modo irregolare e illegale, questo è anche, spiega un po' anche, la realtà di questo paese.